Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Nona puntata. Un certo giorno, sul finire del mio primo autunno londinese, quando già gli alberi lungo il Tamigi erano spogli, capii di non poter più nascondere la verità a me stesso. Mi appoggiavo al parapetto e scrutavo tra le scure esalazioni del fiume le colline di cemento del South Bank. Facevo scorrere le mani sui lampioni di ghisa, sulle labbra imbronciate dei pesci scolpiti, e spesso mi accorgevo con sorpresa che in qualche punto in fondo alla gola canticchiavo dolcemente l'aria di una canzone di un vecchio film indie. Non lasciarmi solo con il mio desiderio inquieto. Non so perché proprio quella canzone. Non avevo visto il film e non possedevo il disco, eppure era sempre quella e nessun'altra. C'erano occasioni in cui la canzone si faceva misteriosamente triste. Allora, in simili sere, supplicavo il ritornello di andarsene e di lasciarmi. Mi capitava persino di pensare di averlo sconfitto, che se ne fosse andato. Mi buttavo su una panchina e restavo in ascolto. Volevo esserne davvero sicuro, ma allora, invariabilmente, lo sentivo di nuovo, un tenero brusio in fondo alla gola. In sere come quelle, presto o tardi, mi ritrovavo a Lambeth Bridge. Guardavo al di là del ponte le torri di mattoni rossi di Buckingham Palace consumate dal tempo e con stupore genuino mi dicevo: «Bene, eccomi a Lambeth Bridge. Visto che sono arrivato fin qui, posso continuare fino a Stockwell e andare a trovare Ayla». Arrivavo a metà del ponte, mi appoggiavo alla ringhiera e mi mettevo a pensare alle ragioni per cui non avrei dovuto andare. Era troppo lontano. La pioggia si sarebbe infittita prima che arrivassi laggiù. C'ero già andato due volte quella settimana. In ogni caso, Ayla non sarebbe stata in casa. Ma una volta deciso, soprattutto se ero riuscito a tenermi lontano da Stockwell per più di 3 giorni, il mio cuore si liberava di un grande peso. Mi affrettavo lungo il ponte e camminavo sempre più in fretta. Infine quasi correvo per tutto il tragitto fino alla casa di Ayla a Stockwell. Camminavo facendo calcoli mentali per coprire il brusio del ritornello. Calcolavo quante miglia avevo percorso e quanto tempo avevo impiegato. 6 miglia e mezzo, dicevo a me stesso, vale a dire 11.440 yard, o meglio ancora, 34.320 piedi, o anche 10.461 metri. I numeri mi riempivano la mente spossandola, così potevo abbandonarmi alla felicità assoluta che mi portava a Stockwell sempre più in fretta. In seguito mi sarebbe capitato di guardare la pubblicità di brillanti e gioielli sui rotocalchi inglesi della domenica o di leggere i resoconti delle storie d'amore degli attori e mi sarei chiesto perché la gente si è portata a contare e quantificare proprio quando si trova in quello stato d'animo che chiamiamo amore, dal momento che, stando a quanto sostengono quegli stessi rotocalchi, esso è l'opposto, l'antitesi stessa della nozione di numero e di quantità. Mi sarei chiesto quali circostanze spingano un uomo a rivelare a un giornalista la cifra esatta, fino all'ultima sterlina o dollaro, spesa per regalare un'auto o un'isola alla donna amata. Mi sarei chiesto perché le inserzioni pubblicitarie siano così sollecite nell'indicare il prezzo esatto dei gioielli che suggeriscono agli uomini di comprare per fidanzate e amanti. Perché una ragazza tenti il suicidio esattamente 9 volte per riconquistare l'uomo che ama? Perché contavo i metri che percorrevo per andare da Ayla? Trovavo solo una risposta: che ciò avviene perché quello stato d'animo, l'amore, è totalmente estraneo all'altra idea senza la quale non è dato di vivere come esseri umani, l'idea di giustizia. Solo in quanto è così profondamente nemico della giustizia, le nostre menti, che rabbrividiscono d'orrore davanti alla sua vera natura, cercano di addomesticare l'amore legandolo al suo opposto. È come se dicessimo a noi stessi: le ho comprato un brillante il cui valore è esattamente questo, oppure lei ha rinunciato a una carriera che le avrebbe consentito di guadagnare esattamente tanto, nella speranza che, applicando tutte le metafore della normalità, ammucchiandole una sull'altra, si riesca alla fine ad avvicinarsi a quello stato d'animo, almeno metaforicamente. E invece, tra quello stato d'animo e le sue metafore, non può esistere alcuna connessione, non più di quanto ne esistano tra una parola, ad esempio stuoia, e l'oggetto in sé. Sono del tutto estranei l'uno all'altra, così che noi possiamo accumulare metafore, diamanti, suicidi, chilometri, sofferenze, e tuttavia non trovare traccia dello stato d'animo in sé. Possiamo addirittura trovare il suo contrario. Forse quei chilometri o metri erano la metafora vivente di me stesso, il mio tentativo di ottenere un po' di giustizia. Avevo già messo sul piatto della bilancia tutto ciò che avevo, cose non da poco, dopo tutto, dal momento che anch'io ero un essere umano, con il mio valore e il mio peso, non brutto, non privo di sostanze, colto e con altre qualità come pazienza e buon umore. Che cosa poteva onestamente avere di più un essere umano? Avevo messo in gioco tutto ciò che avevo, e la bilancia ne aveva riconosciuto il peso soltanto con una leggera oscillazione. Le persone con cui Ayla abitava trascorrevano la serata in cucina. Erano un barbuto informatico irlandese, una ragazza del Leicestershire che aveva abbandonato il North London Polytechnic al secondo anno per lavorare con la Quarta Internazionale, e uno scontroso giovanotto del Ghana molto attivo nella Lega antinazista. Passavano le loro serate seduti intorno al tavolo di legno d'abete della cucina, bevendo boccali di tè o, quando potevano permetterselo, di birra. I loro argomenti di conversazione erano quasi sempre rigorosamente pratici. Potevano continuare a discutere per ore sul tipo di penna più adatto a scrivere manifesti o su come organizzarsi per i panini e il tè al prossimo picchetto. Non c'erano discussioni accese o grida, come ci sarebbero state a Calcutta e a Delhi fra gente come loro. Le discussioni avvenivano normalmente su piccoli problemi di tattica e strategia, e le argomentazioni di solito consistevano in una serie di affermazioni via via più tortuose, appesantite da riferimenti a una lunga storia personale di scelte politiche. Queste controversie erano così pacate che sulle prime non riuscivo a considerarle come tali. Avevano infatti una spaventosa qualità, una serietà di intenti che risultava micidiale proprio perché si esprimeva in forme così controllate. Il più delle volte Ayla sembrava all'oscuro e poco interessata quanto me ai retroscena di quelle discussioni. Ben presto fu chiaro che Ayla giocava un ruolo modesto nella loro vita politica collettiva. Spesso era evidente che avevano preso le loro decisioni prima di chiedere la sua opinione. Le erano molto affezionati, ma sembravano considerarla come un ospite, quasi un elemento decorativo. I tratti del cosmopolitismo di Ayla non li irritavano, mentre erano sempre pronti a criticarli in se stessi e negli altri loro compagni. In un certo senso erano orgogliosi di lei. Spesso la interrogavano sulla ricchezza della sua famiglia, sul numero di domestici che aveva a casa, in India e così via. Ascoltavano con attenzione i racconti che lei faceva, di solito con molte esagerazioni. Parlavano di lei come della nostra aristocratica marxista asiatica. Sembravano compiacersene. Avevano un profondo senso della storia e forse vedevano in Ayla un legame con il movimento socialista dei Fabiani. O forse il fatto che le loro vite e idee potessero avere qualche influenza su un altro continente li compensava della loro impotenza in patria. Comunque, anche se non erano cordiali, erano tolleranti, persino incoraggianti con gli amici di Ayla. Di norma erano freddi, addirittura sospettosi nei confronti degli estranei. Ma gli amici di Ayla erano una cosa a parte. Anche quando non dedicavano loro particolari attenzioni, sembravano felici di averli alla loro tavola. Spesso, arrivando, trovavo Nick in cucina. Era sempre molto elegante. Gli chiedevo il segreto delle sue scelte di abbigliamento. Lui mi spiegava che la camicia era di Turnbull & Desser e la giacca di Armani e sorrideva vedendo che quei nomi non mi dicevano nulla. Sarebbe dovuto apparire fuori posto in quella cucina, ma in realtà ci stava molto meglio di me. C'era un lato pratico del suo carattere, un gusto della manualità che si adattava perfettamente all'atmosfera della casa. Era sinceramente interessato alla vernice per i manifesti e all'inchiostro da stampa. Dalle loro conversazioni scoprivo che spesso trascorreva lì l'intera giornata. Ne aveva certamente il tempo dal momento che non aveva trovato lavoro. In una di quelle serate, dopo aver camminato da Charing Cross a Stockwell, Ayla, seduta accanto a Nick, mi diede un'occhiata e arricciò il naso di fronte alla mia sporca giacca a vento blu e ai jeans di velluto a coste sbiaditi. Disse: «Dobbiamo fare qualcosa per procurarti dei vestiti migliori». «Dove?» «In un posto che si chiama Brick Lane». Si interruppe vedendo la mia faccia. «Che cosa ti succede?» chiese sollevando le sopracciglia. «La conosci?» Prontamente accennai di no e le chiesi quando potevamo andarci. Decidemmo di incontrarci 2 giorni dopo, all'ora di colazione, al Campbell's Head. Arrivai in ritardo. Scorsi subito Ayla in un angolo in fondo al locale. Seduto vicino a lei c'era Nick. Lui indossava una giacca di tweed e una cravatta di seta, lei un golf e un paio di jeans. «Non indovini perché ha deciso di venire anche Nick?» mi chiese con un leggero tono di scusa nella voce. Mi guardò con aria solenne e poi scoppiò a ridere. «Sta pensando di mettersi in affari, importazioni ed esportazioni, commercio di abiti indiani confezionati». Mi fece posto vicino a lei e per il quarto d'ora successivo Nick mi spiegò dettagliatamente il suo progetto. Lo ascoltavo appena, ma capivo che aveva a che fare con Ayla e la sua famiglia, la quale avrebbe investito del denaro in India mentre lui si sarebbe occupato delle vendite a Londra. Ayla probabilmente notò che mi annoiavo perché poco dopo tagliò corto e mi disse: «Sei eccitato, vero? È per via di Brick Lane». Assentì. Lei allora, guardandomi con curiosità, chiese: «Perché? Che cosa c'è di tanto interessante in Brick Lane? Te lo dirò quando saremo là, risposi. Ora andiamo. La prima sorpresa fu che non si trattava affatto di una stradicciola. L'avevo immaginata lunga, stretta e tortuosa, un po' come le strade che avevo visto a Oxford, fiancheggiate da muri di pietra grigia rivestiti di rampicanti, naturalmente con automobili, luci al neon e anche qualche negozio elegante. Avevo immaginato piccoli edifici di mattoni rossi, addossati uno all'altro, ma tutti con un minuscolo giardino e i fiori sul davanzale delle finestre. «Vedi?» disse Ayla ridendo. «Per te è tutto nuovo, te l'ho sempre detto. Non conosci niente di Londra». Nick indicò un edificio con un'ampia cupola e un'insegna con la scritta «London Jamme Masjid». «Vedi quella moschea?» mi disse. «Era una sinagoga quando questa zona era abitata dagli ebrei ancora nel dopoguerra». «Dunque, quando tuo zio viveva qui?» disse io. «Tuo zio Alan?» «Mio zio?» chiese stupito. «Viveva qui?» «Sì», dissi, «ti farò vedere dove abitava». Allungai il passo e li precedetti controllando il nome delle strade a ogni incrocio. Li guidai oltre una grande fabbrica di birra dalla quale l'odore della birra fresca si spandeva nella strada come il sabato sera da un pub sotto il ponte della ferrovia in fondo a Brick Lane. «Eccola!» dissi a Nick indicandogli trionfalmente la casa sull'angolo. «Ecco la casa dove viveva tuo zio Alan all'inizio della guerra!» Il suo viso si allungò e assunse un'espressione di irritata incredulità mentre esaminava i muri decrepiti e l'insegna dell'agenzia di viaggi Taj al piano terreno. «Stammi a sentire», disse. «Ti sbagli. Non può essere quella. Non era povero, lo sai. Il nonno gli aveva lasciato parecchio denaro. Poteva permettersi di vivere dove più gli piaceva». Il modo in cui corrugò la fronte sembrava voler dire che avevo deliberatamente denigrato la sua famiglia. Mi strinsi nelle spalle. Non sapevo come spiegargli che forse aveva vissuto lì non perché doveva, ma per scelta, che forse aveva preferito spendere il suo denaro per finanziare giornali sconosciuti piuttosto che in case e automobili. Anch'io trovavo difficile credere all'esistenza di persone simili. C'erano solo due grandi finestre al primo piano della casa. Una era sbarrata da assi di legno, ma l'altra era aperta e al di là potevamo vedere l'orlo delle tende di colori vivaci in tessuto sintetico che sembrava velluto. Decisi che quella era stata la finestra della stanza di Dan. Era facile immaginare in che modo i vetri erano stati oscurati con i giornali impregnati di inchiostro nero. Era quella la finestra che Dan aveva aperto una notte di settembre del 1940, quando si era stancato di cercare di dormire insieme agli altri sui materassi sotto la scala. Soffriva di insonnia e faceva ancora più fatica ad addormentarsi se non era nel suo letto. Sotto la scala era più sicuro, ovviamente, ma adesso aveva bisogno di dormire. Praticamente non aveva dormito tutta la settimana e l'indomani doveva riprendere il lavoro al giornale, come al solito. Non che fosse più semplice addormentarsi al piano di sopra. Il ronzio degli aeroplani sembrava molto più forte e ogni volta che una bomba esplodeva da qualche parte nel vicinato, una vite allentata della sua branda metallica dava il via a un lugubre rumore di ferraglia. Ne aveva parlato con gli altri e un giorno lo avevano aiutato a capovolgere il vecchio letto, ma non erano riusciti a trovarla. Era ancora là che sbattacchiava. Scese dal letto, si accese una sigaretta e socchiuse la finestra, attento a tenere ben nascosta dietro la schiena la brace luccicante. L'aria fresca gli diede sollievo perché la notte era calda e immobile. Dan si tirò indietro quando un acuto stridore metallico tagliò l'aria, ma nel momento in cui la raffica ridusse i vetri in minute schegge taglienti e le rovesciò dentro la stanza come una cortina d'aghi, Dan era in piedi, accanto alla finestra. Quando gli uomini delle squadre di soccorso lo tirarono fuori, Ogni centimetro del suo corpo era segnato da fori minuti e nitidi dei frammenti di vetro aguzzi come scalpelli che la raffica aveva scagliato dentro di lui. Le scale furono la prima parte della casa a crollare. Il legno emise un lungo, straziante lamento quando l'esplosione scosse le fondamenta. Quell'attimo permise a Trisosen di spingere Mike al di là della rampa di scale e di buttarsi sopra Francesca per proteggerla con il suo corpo. Poi una trave piombò su di lui, spezzandogli la spina dorsale. Morì all'istante. Francesca rimase schiacciata sotto di lui, paralizzata dal terrore, ma illesa fino a quando la tirarono fuori. Un mese dopo fu assegnata a un campo di internamento per stranieri di nazionalità nemica nell'isola di Wight. Mrs. Price non sentì più parlare di lei. Quanto a Mike, sopravvisse, ma aveva già firmato per arruolarsi in marina e fu richiamato il mese dopo. Nel 1943, Mrs. Price lesse il suo nome nella lista dei caduti pubblicata sul Times e in seguito venne a sapere che la sua nave, un dragabine, era stata silurata da un U-boat non lontano dal porto di Lowestoft. Due giorni dopo, quando Tridib andò con Maya Debbie e Mrs. Price nella casa di Brick Lane per raccogliere le cose di Trisosen, trovò una fotografia di loro quattro appesa sulla parete della cucina. Era stata scattata in un parco. Ridevano tutti, Dan un poco in disparte e Mike con le braccia intorno alle spalle di Trisosen e di Francesca. «Che storia triste», disse Ayla. «Devono essere stati molto felici in quella casa. Come fai a saperlo?» le chiesi, stupito della sicurezza del suo tono. «Perché anche noi a Stockwell viviamo come loro». Dapprima pensai che scherzasse, ma quando la guardai mi resi conto che lo aveva detto con assoluta serietà. Cominciai a meravigliarmi della disinvolta presunzione che la spingeva a credere che la sua esperienza potesse racchiudere altri momenti solo perché era venuta dopo, a credere che tempi e luoghi possano essere gli stessi solo perché sembrano uguali come i bar degli aeroporti. «Tu pensi che qualcuno possa essere molto felice in un'epoca come quella?» sbottai. «Non credi che litigassero molto, ad esempio, a proposito del patto russo-tedesco?» Ayla era calma, serena, si mise a ridere. «Senza dubbio litigavano. Fa parte del divertimento di quel tipo di vita. Tu sei troppo serio. Del resto, non hai mai vissuto così, non puoi saperlo. E cosa ne sai tu di come ho vissuto io?» dissi. «Beh», rispose lei, quietamente. «So, ad esempio, che hai passato tutta la vita al sicuro nei sobborghi residenziali di Delhi, di Calcutta. Non puoi sapere che cosa significhi questo tipo di felicità. È una gioia il solo fatto di sapere che si è dentro la storia». Sembrava infinitamente distante, così tranquilla e sicura della centralità e del significato della sua esperienza, così quietamente compassionevole nei confronti di vite meschine come la mia, vissute nel silenzio di eventi senza risonanza in un mondo arretrato. Cominciai a urlare dicendole che mi facevano ridere lei e i suoi patetici amici, ridicoli sostenitori dello stato assistenziale, che non sapeva nulla di coraggio e politica, che io potevo capire meglio di lei gente come Trisosen, perché ero in grado di immaginare un'epoca in cui la politica era una cosa seria. «Seria», disse con un tono che si era fatto più aspro. «Mio Dio, sei così ingenuo. Lo sanno tutti quel che facevano quei sinistrorsi degli anni 30 nei bar di Berlino. Probabilmente dedicavano più tempo a discutere delle proprie avventure sessuali che del patto russo-tedesco. Tu però non ci puoi credere perché non sai nulla dell'Inghilterra. Lasciai perdere perché naturalmente aveva ragione. Non conoscevo affatto l'Inghilterra se non come invenzione. Tuttavia avevo conosciuto gente della mia età sopravvissuta al grande terrore di Calcutta degli anni 60 e 70 e ritenevo di avere quantomeno una conoscenza da spettatore del loro coraggio, qualcosa che Ayla, con i suoi abiti eleganti e le mani ben curate, non avrebbe mai capito. Anche questo non era vero, tuttavia. perché ero insieme a Ayla una volta in cui lei era appena uscita dal negozio del parrucchiere con i capelli puliti e arricciati ed era andata dritta a Brixton dove l'aspettava il suo gruppo di amici per affrontare una banda di razzisti prepotenti armati di catene da bicicletta. Quanto a me, sapevo che non ne sarei stato capace.